Ciao. Ciao. Io, senti, sono quello dei dischi, non so se presenti anonimo. No, non ha presente. Io faccio il cantante della musica, la musica bella, quella tutta discoteca. E ti va di acchiappare un attimo una cosa? Una cosa? Di acchiappare questo. Questo cosa? Acchiappare questo. Ciappa tu, ciappa tu, tu, ciappa tu, ciappa tu. Porca miseria, c'ho continui mal di... È come se mi sale sempre... Allora non c'è più corsa, non c'è più niente. No, non capisco. Vai via. Comunque sei stata fortunata perché ti spaccavo.